radio Catrame 19, la tua web radio inusuale. Mercoledì 15 ottobre 2008, puntata numero 31 di Parla come scrivi, la prima della terza serie. Io sono Strelnik, accanto a me in un vagonaccio Frigidaire, sempre più affollato, ci sta il sociologo Calzolai, in piena forma, e poi accanto con un leggerissimo... Una leggera chiusura nasale. No, una leggera occlusione nasale sta lì. Ma stasera non siamo soli perché accanto, anzi appena dietro di noi, ci sono altre due persone di cui nel corso della puntata vi sveleremo i segreti. Il segreto. C'è sempre naturalmente il nostro carissimo amico Enz, il nostro fonico preferito, che anche ciao, stasera... ti vogliamo benissimo, eh. Anche stasera è sbronzo il nostro Enz, ma faremo da soli. Non importa, non importa. Puntata dedicata all'odio e alla paura, si intitola Hai paura dell'odio. Noi abbiamo cominciato con la nostra usualissima sigla, sotto di noi stanno i Milaven con i This Is Red, e noi ve la facciamo ascoltare per qualche secondo mentre ci mettiamo d'accordo per tutta la scaletta e i collegamenti. Vai, Enz! Diciamo che stiamo collegandoci e provando tutte le astuserie che serviranno stasera, perché oltre a collegamenti skypofonici c'è naturalmente la nostra chat dove potete intervenire. E gli ovo web spettatori ci stanno già seguendo, non è vero, sor sociologo? Che ne dice lei di questa serata? La vedo tesa, la vedo parecchio tesa. Sì, in forma ma tesi, diciamo pure ambivalenti, perché questa... è una serata veramente ambivalente. Prima il gentil Strelnik mi definiva come uno in forma e adesso mi definisce come uno teso. E allora dove andiamo a parare? Andiamo a parare nella ambivalenza. Ambivalenza, ho detto bene ambivalenza. Sì. Alla spagnola. Sì. Ambivalenza. Ambivalenza. Tra sorrisi. Ambivalencia. E questo non so come si pronuncia in portoghese, anche se Liv mi ha dato il nostro classico aggancio al fin di salutare i nostri amici ovo spettatori portoalegrenci. Ok, che noi salutiamo caldamente. Portoalegreni. No, portoalegrenci. C'è un gruppo d'ascolto anche in, a al di là dell'oceano, noi li salutiamo così come salutiamo tutti quelli italiani e europei, insomma da qualsiasi parte essi, elle, egli, essi ci ascoltino. Insomma, è puntata che va a parare nella paura. Paura e odio. Paura e odio. Paura e odio perché? Perché partiamo da un articolo di Zygmunt Bauman, apparso una quindicina di giorni fa su Repubblica. La Repubblica del 29 settembre 2008. Quindi sono un po' più di 15 giorni e noi partiamo da questo per affrontare il tema della nostra puntata. Vai Enz. Andiamo direttamente a estrapolare, citare qualche cosa, ve lo legge il nostro sociologo. L'odio e la paura dell'odio sono antichi quanto il genere umano, forse ancora più antichi. E le probabilità che la loro eterna familiarità con la condizione umana possa essere interrotta in un prossimo futuro appaiono alquanto scarse, sempre che ve ne siano. Odiamo perché abbiamo paura. Ma abbiamo paura a causa dell'odio che avvelena la nostra coabitazione sul pianeta che condividiamo. Così ci sono sempre motivi più che sufficienti per avere paura e sempre motivi più che sufficienti per odiare. Si è iniziato veramente, sembra di stare in chiesa. Abbiamo messo una musica di sottofondo che sono gli Ermelin, poi tutti i credits della playlist della puntata li troverete online. In effetti fa questo effetto qui, anche alle prove lo dicevamo, forse partiamo un po' troppo pesi. Però pesi. Bene cominciare così, perché poi arriveranno altri contributi, arriveranno altri accenti, arriveranno altre punti di vista e angolazioni che contribuiranno a smorzare un po' questo... Nel frattempo un utente si è appena scollegato, appena Carbonai ha iniziato a chiacchierare, è fuggito. Fuggito. Sociologo, porca miseria. Thank you. Sembra che l'odio e la paura siano prigionieri di un circolo vizioso, che si alimentino vicendevolmente e traggano l'uno dall'altra l'animosità e l'impeto che li infiammano. Allora, se abbiamo capito bene, Bauman parla di questo rapporto che c'è tra paura ed odio. Attenzione, aspettate, qualcuno ci sta chiamando su Skype, ma non è ancora il momento, c'è stato un ring di pochi secondi, e scusate, questi sono gli inconvenienti della diretta. Inconvenienti tecnici, però tema era proprio veramente questo. Cioè, e dopotutto alle volte si dice delle cose, altre volte si scherza in queste puntate di Parla come scrivi, e siamo partiti a questo giro veramente sul peso e su questa ambivalenza e corrispondenza nesso tra due dimensioni che secondo Bauman si influenzano vicendevolmente: odio e paura. Esatto. In un sistema sempre più fluido, sempre più frammentario, sottile e difficile da comprendere. E poi come arriviamo, come andiamo a collegarci con quest'altra parte che invece ci interessa più specificamente a noi stasera? Perché c'è questo clima di paura? Allora, entriamo nella parte che riguarda l'Italia. Partiamo dalle cose a noi vicine e quello che subiamo, la situazione attuale nostra. Dov'è che si può trovare un punto d'aggancio con le parole di Bauman, che certo si valgono a livello generale, però parlando più specificamente dell'Italia? E Bauman in questo articolo poi critica tutto il sistema politico italiano, parla della Lega che intercetta l'insicurezza esistenziale, però non è che mi convinca molto. Non ti convince molto. Sta parte qua no, mi sembra, non è un grande conoscitore del sistema italiano, però ecco, vabbè. No, su questo invece però... noi ci interessa molto perché Bauman appunto fa una critica molto circostanziata e generale sul sistema politico italiano, poi da alcune interpretazioni che su cui te non sei totalmente d'accordo. Naturalmente lanciamo questo punto di domanda, anche se siete d'accordo però, o meno con l'articolo di Bauman e il rapporto che c'è tra paura e odio. Però è affascinante e profondo, come forse solo lui sa essere, quando dice: le paure di oggigiorno sono generate in larga parte dalla globalizzazione. In altre parole, la nuova extraterritorialità di forze che decidono delle questioni fondamentali riguardo alla qualità della nostra vita e alle possibilità di vita dei nostri figli. Il primo nesso causale collaterale riguarda il senso di sicurezza esistenziale. Ecco. E quindi è detto questo. Ancora siamo tornati, no, siamo ancora tremendamente proprio sul peso, cioè ci sul, si sente a parte il pesante, sapevamo che questa comunque la situazione è pesante, è inutile far finta la situazione è abbastanza pesante per tutti noi, voglio dire, c'è chi scherza sul ventennio, ci sono scrittori che se ne vanno dall'Italia perché sono minacciati di morte, c'è l'università che sta per essere smantellata e fatta diventare una fondazione privata. È chiaro che la situazione non è delle più rose. Te hai inquadrato la situazione anche, citando Bauman, a livello più globale, cioè questo capitale nomadico che si sposta così, come le merci non hanno confini, ce l'hanno gli uomini le merci, i confini, per cui non possono andare da una parte all'altra. A patto, se non a patto, gli uomini non hanno più confini, diventano i confini, si tolgono. Nel frattempo c'è un lazzaretto. Nel frattempo c'è un nostro. Sì, in effetti la situazione è pesante e dal nostro punto di vista. Di fazzolettini. È pesante anche dal punto di vista proprio batteriologico. Perché hai paura della morte, hai paura della malattia, di soffrire. Hai paura? Ho paura di morire per... Cioè, neanche i bacilli hanno confini qua, mi sembra. I bacilli non hanno confini, quindi figuratevi se c'ha confine i soldi. Di tutto questo vogliamo parlare appunto nella seconda puntata, perché questa grande volatilità, no? Questa grande capacità di spostarsi da una parte all'altra dei soldi, invece, che sembrava ci salvasse da tutto... E invece ci ha fatto fare una bella botta, o almeno all'economia ha fatto fare una bella botta. Ci fanno uno squillo ancora per avvertirci che stanno arrivando alla spicciolata tutti i nostri contributori con i quali ci collegheremo. Uno tra questi, guarda caso, ci ha squillato adesso, è proprio il nostro Carlo Cannella da Leiden, nel nostro primo collegamento, perché sull'articolo di Bauman, che appunto abbiamo testé citato, anche egli possa darci la sua versione. Nel frattempo, nel mentre davano a Carlo il tempo di prepararsi, avete sentito alle mie spalle altre voci oltre alle mie, quindi noi nel frattempo proviamo a presentarvele o ad autopresentarsi. E abbiamo Dario e abbiamo il nostro sociologo numero 2, Mauro Sandrini, che è una vecchia golpe e conoscenza del nostro vagonaccio, è vero? E che ogni tanto mi fa vedere dei foglietti dove ci mi scrive: io ho paura della Carfagna. Perché la domanda della puntata è: paura dell'odio? Quindi in effetti suscita molte, molte risposte. Una delle risposte è: no, io ho paura della Carfagna. Cioè, a me mi rassicura la Rosy Bindi. Ecco, il senso chioccesco di Rosy Bindi. Stiamo tutti sotto la luce di Rosy Bindi. Sì. Ecco. E la Carfagna mi fa paura. Sono sempre due animali, uno una chioccia e l'altro una topa, però insomma. E così, dunque. Sandrini. Allora, non dice le strade, Sandrini, la Carfagna. Noi adesso dovremmo avere, allora, paura e odio. Paura e odio, diciamo, per stemperare anche un po' la situazione molto pesante. Qui noi non ci si ottraiamo, anzi si vuole essere punto di svolta, di confronto, di consultazione tra i vari Ovo Web spettatori e noi. Abbiamo un pubblico molto molto attivo di cui siamo orgogliosissimi, perché i nostri Ovo Web etere spettatori non sono soltanto recettori dei nostri messaggi, ma contribuiscono, come si dice, a fare l'ossatura della puntata stessa, di questo vagonaccio. Fare chiocciola, Rai, fare chiocciola, esatto. In mezzo, tutto questo per dirvi che adesso vi mandiamo uno stacchettino citazionistico per una persona che ci piace molto e che ha a che fare con la paura. Vai, Hans. Con questa musica allegra, questo è lo spettacolo della paura. Straordinario. Che musica allegra che ci ha accolto. Straordinario, è il meraviglioso spettacolo della paura. Ah, che paura! We'll be right back. diretta su Radio Catrame 19. In diretta su Radio Catrame 19, la cena. No, naturalmente non è la cena, quello era un vecchio jingle fatto dal nostro maestro Gattico per la trasmissione che andava in onda 2 anni fa, la trasmissione pioniera del palinsesto di Radio Catrame 19, fondata da Guido Catalano, Arsenio Brav'uomo, insomma, è stata una... È l'inizio proprio, il primordio di Radio Catrame 19, Enz ci ha fatto questa leggerissima... citazione. Bene, noi abbiamo adesso quasi pronto il collegamento skypofonico. 9.000 spettatori. 9.000 spettatori, attenzione, siamo a 9.000 spettatori. È incredibile. Infatti adesso dobbiamo chiamare il nostro datore di banda perché penso che... Chiamatelo Mino Telecom, aiuto. Chiamiamolo Mino Telecom perché siamo veramente ai limiti della banda adesso come spettatori. Noi vi ringraziamo. E più due presenti qua stasera. Due presenti. 9.002. Poi qualcuno ci ha assicurato che c'erano dei gruppi di ascolto per cui erano più di uno, cioè su lì si vede uno, però sono più di uno, quindi Portalegri sono 7.000. Esatto, siamo molti, siamo moltissimi. Adesso stiamo per chiamare... Chiamiamo un attimo l'Olanda, esatto, e mentre poi Enz ci trova una musica. L'Olanda che c'ha anche un po' paura degli stranieri, fa loro ci raccontano. Sì. È una convivenza che va bene, ma ogni tanto si incazzano un po'. Vediamo. Però sono gentili, vediamo che ci dice il nostro finto ante, vediamo se squilla. Un altro sociologo, tra l'altro. È un altro sociologo, sì. Lui, diciamo che è il sociologo numero... È zero, nel senso che senza offesa, però lui è il... Sentiamo, ci senti Carlo? Io ci sono. Eccolo qua, qua. Ecco. Saluti a Carlo, sociologo numero zero. Sì, sì, saluti intanto, a voi. Ciao. Io intanto devo soltanto dire un attimo alle persone che per parlare con noi meglio non usare la chat di, anche se ringraziamo nuovamente tutti, non usare la chat di Skype. Ma venite sul sito e... andate sul sito www.catrame19.it e da lì entrate nella chat, perché altrimenti noi usiamo adesso Skype per i collegamenti audio. Se volete fare un collegamento audio, naturalmente vedo il nostro amico Paolo che farà sicuramente un collegamento audio, quindi lo lasciamo qui dentro per adesso. Salutiamo Ezekiel che è appena arrivato. Comunque scusaci Carlo, torniamo all'Olanda, questo articolo di Bauman da cui noi siamo partiti. Che ti dice? Qui il sociologo aveva dei dubbi sulla sua analisi della situazione italiana da parte di Bauman. Te che ci dici di questo articolo della paura? Ma mi sembra che insomma l'analisi sia abbastanza centrata. Il problema è che forse lo è troppo, nel senso che forse è un po' troppo ovvia, troppo scontata. Cioè, mi sento adesso parlare sopra, quindi riesco a... Ti senti parlare sopra? Abbassa, sì. Abbassa l'audio, allora, l'audio della radio che ci stai ascoltando, abbassalo completamente. Sì. Quello abbassalo, perché altrimenti o esci momentaneamente dal tuo lettore, dal player che sta usando per ascoltarci, perché altrimenti ti risenti con 20 secondi di ritardo. Esatto. Perché 20 secondi sono quelli che ci mettono a uscire le note binarie dal nostro manuaccio. Ho capito. Quindi, vabbè, la mia capacità tecnica è quella che è e cerco, insomma, di fare qualcosa. Vabbè, comunque... Usa solo Skype e chiudi la radio da dove ci ascoltavi. Poi la riaccendi subito dopo, appena abbiamo finito di parlare su Skype. Ho capito, va bene. Allora chiudo la radio, eh? Sì. Noi ti lasciamo comunque in diretta. C'è il nostro sociologo, c'è un bel vagone stasera. Guardate, non peccato che non abbiamo il video, la possibilità video, perché se no ci salta veramente tutto. Siamo arrivati in frattempo 10.000 ascoltatori. Esagerazione stasera. Ragazzi, guarda, mi dispiace che sono malata proprio la sera che facciamo il picco di ascolto. Sì, ci dispiace, ci dispiace molto. E adesso dunque, che cosa dicevamo su questo articolo? Perché ti pareva, ecco, fin troppo centrato, nel senso che partiva troppo dall'osservazione dell'ovvietà del reale? Beh, sì, anche perché l'analisi più o meno è sempre quella, cioè non è che adesso Bowen ci dica qualcosa di diverso da molto altro, insomma. È vero che cioè il fatto che anche un paradosso, no? Che più diminuisca la criminalità, più viene agitato questo spettro della paura e delle insicurezze, è ormai un dato reale di fatto. E che sia anche in qualche modo usata questa paura da molti leader politici come una merce, no, da capitalizzare sul mercato, è un altro dato di fatto. Io però direi che forse il peccato di presunzione di un'analisi di questo genere è un po' quello di sempre da parte di un certo, di una certa elite, no, intellettuale, perché è come un chiamarsi fuori da quello che è un po' lo spirito, no? La paura generalizzata di solito. È una paura appunto generalizzata, cioè che coinvolge tutti, cioè lo stare lì a dire alle persone come si comportano e perché si comportano in un certo modo e quindi analizzarli nel profondo è un po' una presunzione, perché implicitamente sta lì a dire che queste persone sono rozze, sono volgari, non percepiscono il dato reale e mentre l'intellettuale lo fa. E quindi ha anche la presunzione di dirgli perché, per come e in certa qual misura dirgli io sono superiore perché non sono succube di queste paure. Probabilmente questo è un punto pericoloso perché dovremmo avere lo spirito di dire, vabbè, facciamo anche noi parte del tutto, quindi le nostre paure potrebbero anche essere quelle della gente comune, voglio dire, ci siamo anche noi dentro e dobbiamo trovare un modo per superarle, cioè dire alla gente che le loro paure non hanno fondamento non significa niente, paradossalmente non significa niente, dobbiamo cercare una via per superare queste paure e questa via non viene mai citata, non viene mai portata. Mai Cioè, indicata. no, io penso che ci siano pochi spunti da questo punto di vista. Ah, del resto, concedimi, il sociologo in quanto tale, la realtà osserva, la sintetizza, poi insomma le conclusioni su come uscire da queste cose forse non sono nemmeno compito di questa elite culturale, o no? Ma io penso che invece il compito. Guardavo nel frattempo anche il sociologo Calzolai, il Esistono, dice socio. Riccardo? Dimmi, Carlo. No, beh, il sociologo naturalmente ha i suoi indicatori per valutare le società, ma il suo compito non può finire lì, perché se finisce lì, voglio dire, non può essere soltanto uno strumento di chi invece dovrebbe mettere in atto delle soluzioni. Perché poi, dal punto di vista politico, ci sono altri tipi di valutazione, cioè la politica non sta a valutare i dati della sociologia o dei sociologi, la politica agisce per interessi propri e questi interessi non sempre collimano con l'interesse generale, anzi quasi mai. Quindi ci vorrebbe forse uno sforzo, una presa di posizione, qualcosa che vada al di là di una semplice analisi. Qualcosa di più profondo che Non so, perché naturalmente. poi magari forse diventiamo un po' tutti santoni alla fine che danno soluzioni. Secondo me è più interessante, anzi ci farebbe bene una gran dose di teorie sulle cause piuttosto che sulle soluzioni finali. Poi la soluzione uno se la può Sì, ma le trovare. cause sono quelle, Anche cioè. perché, scusami e termino Carlo, molto secondo me passi anche da quelli che danno soluzioni anche troppo semplici, soprattutto a livello politico. La tua paura deriva dal diverso, la tua paura deriva dallo straniero, eccetera, eccetera. A me quelli che mi danno delle risposte o delle soluzioni un po' mi fanno paura in generale. Quelli mi fanno paura, o no? Ma se queste risposte, queste soluzioni sono, come dicevamo prima, una merce da capitalizzare sul mercato politico per ottenere voti, allora è un conto. Se invece queste risposte sono effettive, nel senso che cercano di dare, di porgere un rimedio per una situazione che sta radicalizzandosi e scivolando nell'intollerabile, è un altro conto. Ma noi, se vogliamo dare un valore alla politica, ancora glielo dobbiamo dare in quel senso lì. Se siamo qui a dire che la politica non ha più valore perché la politica è solo un interesse da perseguire, e allora vabbè, ci arrendiamo e lasciamo perdere tutto. Ma io penso che non si debba arrivare a questo punto. Tutto qua. Poi è chiaro che ci sono dei motivi per cui oggi tutto viene rapportato all'ordine sociale, per dire, oggi è quella la parola d'ordine, sicurezza, ordine sociale, senza rendersi poi conto che in definitiva i dati ci dicono che una società così ordinata non l'abbiamo avuta quasi mai, e che anzi, quando si fa riferimento al ventennio fascista come modello di ordine sociale, non si può non rilevare, ad esempio, e i sociologi usano degli indicatori per valutare per esempio l'ordine sociale. Un indicatore classico è il numero di omicidi, no? Sono gli omicidi. Nel ventennio fascista eravamo 43 milioni di abitanti in Italia e c'erano 1600 omicidi. Oggi siamo quasi 56 milioni, quanti siamo, e gli omicidi sono 600. Questo ci sta a dire che, sintetizzando naturalmente, che il livello di sicurezza è molto più alto rispetto a quel modello lì che tanto viene evocato in questi frangenti. Quindi questo qualcosa vuol dire, e lo sfruttamento dal punto di vista di certa politica, di dati falsi, sparati a tutti così in maniera subdola, per un proprio tornaconto, è un altro dato di fatto reale. Il fatto è che non si riesce a dare alle persone il senso di questo paradosso, e okay. Questa è una cosa abbastanza ridicola, no? Se vogliamo, sì, anche sì. E allora noi facciamo così adesso, riflettiamo su tutta questa roba che siamo andati ad illustrare, e scusi, abbiamo appunto, aspetta un attimo, perché c'è soltanto Carlo, rimani in linea. No, sì. Dicevo che dalle parole di Carlo si è scatenata una breve discussione in chat, e tutti quanti sostengono con chiarezza che la paura è lo strumento di questo governo, lo strumento principale per eccellenza. Quindi su questo credo che non... Ma è lo strumento di tutti i governi in questo momento, non solo quello italiano. Il nostro, devo dire, adesso sta facendo una bella puntata sulla paura, non ci male. Vabbè. E le persone sono anche molto contente, perché oggi nella top 10 dei ministri di gradimento, quelli che inneggiano la paura, tipo Maroni o la Russa, eccetera, sono messi molto bene, quindi sono quelli più amati, quelli che più ci spaventano e più ti amano. Sì, esatto. Noi adesso, fatto di odio e paura, ci spostiamo. Allora, innanzitutto ringraziamo Carlo, che continua a ascoltarci, e senti liberissimo di intervenire, sì, quando vuoi. O di andare a dormire, di bere della birra, che c'è anche una Leiden. Ti mandiamo adesso un abbraccio, ci sentiamo una canzoncina dolce dedicata a tutti quelli che odiano. Ogni uomo in America odia il suo vicino, ma peggio di Ned Flanders non si può. Cantar voleva insieme a me, bigotto, idiota, scimpanzé, ti odio ed un cazzotto ti darò. Il suo nome è Flanders, dir che l'odio è poco, vorrei che la sua casa andasse a fuoco. Si chiama Ned Flanders, non cambia mai, è peggio di Godzilla e Frankenstein. Se tu lo offendi non si arrabbia, prega nella sua casetta, che è perfetta come gabbia, la sua gioia è subire la noia. Stupido Ned Flanders, non lo sgridar, se la moglie ha scelto invece di schiattar. State ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale. Tutti odiano Ned Flanders, e quindi dopo l'intervento... Non è vero! Sì, sì, sì, tutti odiano Ned Flanders, ha riscosso tantissimo successo nel nostro vagonaccio. La versione di Homer Simpson di Tutti odiano Ned Flanders, gentilmente estrapolato da una puntata dei Simpsons. Dopo sentiremo invece qualcosa di odio più puro, in omaggio anche a Carlo Cannella che ci Non perché lo odiamo, ma perché c'è una storia con il gruppo che sentirete, un gruppo che già Carlo nell'85 aveva pubblicato in un vinile. Noi andiamo avanti e a questo punto allora scivoliamo lentamente nella parte di paura e del panico provocata dalla crisi finanziaria. Questa crisi finanziaria, dove arriva questa crisi finanziaria? Noi finora abbiamo ragionato sfiorando sempre la parte valoriale, perché questo è un nostro limite, anche andiamo sempre lì a parlare di valori, no? Ma che di concetti. Sì, di concetti, no, giusto, non di valori, di concetti. E come vogliamo... quella di paura, mutevole, esatto. Mutevole, ma mutevole nel tempo, molto mutevole, quello di paura. E chissà come quello di oggi è concepito socialmente rispetto a quello di 10 anni fa. E se le modalità con cui noi parliamo di paura oggi sono le stesse con cui si poteva parlare di paura 10 anni fa. Cioè, c'è anche un cambiamento culturale profondo che suggeriva la riflessione del Cannella. Ma a non mutare sono i numeri. Questi non mutano e sono i numeri delle crisi delle borse di mezzo mondo di questi giorni. 5 punti, ci ricorda il nostro amico Uriel in un suo post nel suo blog wolfstep.cc. Il brodino d'azione del G7 e elenca i 5 punti riassunti così. Primo punto. Il G7 si dice d'accordo a prendere azioni decisive e usare tutti gli strumenti disponibili per sostenere sistematica. Secondo punto. Compiere tutti i passi necessari per scongelare il credito e i mercati monetari e assicurare che le banche e le altre istituzioni... Terzo punto. Assicurare che le nostre banche ed altri importanti intermediari finanziari, se necessario, possano raccogliere capitale da fonti sia pubbliche. Quarto e quinto punto, non ve li dico. Ma allora, a parte l'ambiguità dei punti, che sembrano un post-it con scritto sopra todo, fare qualcosa per guarire, il motivo per il quale ci rido sopra è semplice. Stiamo parlando di stati sovrani che potevano già fare quelle cose quando volevano. A che cosa è servito questo show? A nulla. È quello che scrive Uriel. Noi abbiamo letto i suoi scritti, li leggiamo da un bel po' di tempo e ci era piaciuto, perché quanto scrive a proposito della crisi finanziaria ci piaceva veramente, veramente tanto. E adesso noi proviamo a collegarci via Skype con Uriel, di modo che su questo, anche questa prima parte, il brodino del G7, ma più in generale sulla crisi finanziaria e su che cosa è successo, ci possa dare lui la sua diretta testimonianza. Proviamo, naturalmente Hans ci darà una mano con tutti gli affari tecnici che esistono e noi proviamo a chiamarlo adesso. Adesso mettiamo, grande Hans, ci senti? Uri, ci senti? Sì, vi sento, voi mi sentite? Sì, molto bene. Perfetto. Senti, abbiamo letto, non so se ci ascoltavi, se ci stavi ascoltando, sì. Il tuo post intitolato Il brodino d'azione del G7, e appunto ci interessava sapere, anche alla luce di quello che hai scritto appunto nel tuo blog da diverse settimane, qual è appunto la tua percezione, usa tanto questa parola adesso, su tutta la parte di crisi e di paura che genera appunto questo tonfo di Wall Street e questa crisi globale del capitale. Allora, essendo io un logico matematico, tendo a guardare i numeri. Onestamente i numeri americani fanno paura, perché 14 triliardi di dollari di perdite sono tanti. Però dobbiamo guardare anche altre cose, nel senso che i crolli europei sono nell'ordine dei miliardi di dollari. E questo significa che sono cifre mille volte inferiori. Quindi all'inizio faceva poca paura e si facevano i brodini. Poi improvvisamente si è deciso di usare l'eccesso di sicurezza e si è deciso di garantire l'Europa con il contribuente, quindi con il 40% del PIL che viene prelegato come pressione fiscale. Scusa un attimo, interrompo soltanto un attimo per una ragione tecnica. Riusciresti a abbassare soltanto l'audio del player con cui ci stai ascoltando? Perché altrimenti risentiamo in cuffia quello che decidi, però ritardato di un bel po' di secondi, e anche naturalmente tutti gli altri ascoltatori. Fatto. Ok, perfetto. Scusa, mi siete interrotto. No, va benissimo, non sono un grande esperto. Allora, stavo dicendo che alla fine dei conti adesso si è letteralmente blindata l'Europa usando la paura come, diciamo, come scusa per farlo, e paradossalmente adesso abbiamo paura delle conseguenze di questa sicurezza, perché abbiamo, a fronte di perdite mille volte inferiori, abbiamo blindato le banche dicendo che per legge non possono più fallire, creando una finanza ipersicura o perlomeno ipergarantita. E quindi cosa succede? Adesso un sacco di gente vorrà essere al sicuro e quindi porterà i soldi in Europa. E Berlusconi è già lì che strilla dicendo: ah, ci comprano le nostre preziose banche. Allora, hai creato una situazione di sicurezza mai vista, perché non è mai successo che i governi abbiano garantito direttamente che nessuna banca possa fallire. E poi cosa fai? Mi dici, quando tutti vorrebbero stare sotto questo ombrello, perché ovviamente è bellissimo, dici: ah, oddio, adesso arriva il capitale straniero e ci compra tutti. Beh sì, per forza, hai creato sicurezza, è chiaro che tutti la vogliono, certo, no? Certo. E quindi, alla fine dei conti, siamo in una situazione paradossale in cui abbiamo paura anche quando non dovremmo. E anche perché, se ci riflettiamo bene, il legame fra la paura e il mercato finanziario ha un nome e si chiama rischio. Certo. Ma il rischio è proprio quello che veniva venduto con i cosiddetti titoli derivati. Sì. Perché negli anni '80 è stato vinto un premio Nobel in cui si dimostrava che il rischio fosse una merce vendibile, e si poteva addirittura mettere a bilancio. E di conseguenza... cioè, stiamo prendendo un mercato che è nato vendendo rischio, cioè vendendo paura, di fatto, e lo abbiamo blindato contro ogni possibile paura, perché adesso l'Europa è stabile per definizione, e poi visto che tutti vorrebbero partecipare, diciamo: no, facciamo leggi per tenere fuori i fondi sovrani arabi, altrimenti comprano le nostre banche. Beh, scusa, allora perché le rese sicure? No? Certo. Quindi questa paura è in un certo senso abbastanza, sembra quasi che si alimenti da sola, nel senso che adesso che potremmo stare tranquilli arriva Berlusconi che dice: no, anzi, adesso addirittura saremo ancora più sotto assedio. Scusa, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere, se fossimo stati in crisi sicuramente nessuno sarebbe venuto a comprare le nostre banche, ma certo, quella è la paura. E questa parte anche della mi interessava anche moltissimo, oltre a queste riflessioni che fai te, quella parte anche legata appunto a mass media e panico, cioè perché appunto viene creato nella situazione precedente. Tu ci hai fatto un'analisi perfetta di quello che si è verificato praticamente negli ultimi giorni, no? Per quello che si era verificato prima, quindi anche sulla comunicazione, su come i mezzi di comunicazione di massa hanno trattato la cosa, e quindi la dipendenza che c'è appunto tra la proprietà dei mezzi di comunicazione di massa e il generale paura o meno. Sì. In Italia abbiamo raggiunto dei livelli quasi parossistici, perché potevamo leggere da un lato La Stampa, che è di proprietà di una famiglia di industriali, e dall'altro lato un giornale come Il Corriere, che è proprietà del cosiddetto salotto buono della finanza. Per cui cosa succedeva? Che c'è stato il primo periodo di questa crisi, sembrava che tutto fosse limitato, diciamo, alla finanza di carta, per cui i signori, evidentemente i signori della lamiera, erano tranquilli e la stampa era molto serena. Sì, va bene. Invece il Corriere strillava più non posso, perdite gigantesche, perduti migliaia di miliardi, bla bla bla, che poi in realtà non sono stati perduti, ma lasciamo perdere. Perduti migliaia di miliardi, bla bla bla, ha fatto una cosa, una pressione incredibile sulla politica, fino a quando la politica, anche a fronte di un fallimento nell'ordine di pochi miliardi di euro su scala europea, ha deciso di sposare la paura e dire no, garantiamo ogni cosa. Da quel momento sul Corriere della Sera è successo che improvvisamente sono andati in prima pagina altre cose. Sembra quasi che sia risolto il problema. In realtà è risolto il problema del consorzio del CS. Improvvisamente Unicredit, che è ancora a livelli bassi come azioni, non se ne parla più, chi se ne frega, no? E improvvisamente però ha cambiato tono Fiat, nel senso la stampa, perché adesso le industrie temono di non avere crediti, in quanto avendo delocalizzato non riescono a dare garanzie alla banca, cioè tu qua hai soltanto gli uffici e vuoi soldi per produrre auto, la banca mi dice sì, va bene, ma tu c'hai stabilimenti, cioè operai, voglio vedere capannoni, stabilimenti, operai. E quindi cosa succede? Che adesso la Marcegaglia e Confindustria, quindi la Fiat, strillano più non posso, e se guardi la stampa è ancora lì il crollo, Dio, bla bla. Gli altri giornali, quelli più legati alla finanza, in particolare il gruppo RCS, sì, c'è crisi, però sai, abbiamo già fatto questi provvedimenti che hanno dato fiducia e poi, insomma, sì, ha messo semmai il problema dei malvagi arabi che vengono a comprarci le banche. Cosa che tutti si auguravano fino a un anno fa, no? Tutti dicono che vogliamo le fusioni, le banche devono diventare internazionali, adesso vengono a comprargliele e improvvisamente hanno paura. L'impressione è che questi qui abbiano paura sempre. Sì, sì. A prescindere, cioè abbiano deciso di aver paura e in qualche modo, qualunque cosa succeda, abbiano paura. In realtà l'Italia è stata sfiorata così poco da questa crisi che le altre nazioni hanno dovuto stabilire un budget per garantire le banche. Tremonti ha detto, ma metteremo quello che servirà, perché tanto sa che non servirà niente, perché il nostro sistema era così ingessato, anche prima, che di fatto il fallimento di una banca diventava immediatamente un affare politico, e la banca veniva immediatamente presa di forza, fusa con un'altra. Non ci sono stati fallimenti catastrofici di banche in Italia nel dopoguerra, insomma. Infatti avrebbe fatto gridare al, come si dice, paradossalmente al bolscevismo quando hanno guidato i falchi repubblicani nel congresso americano, quando è stato spaventato e proposto e poi votato i 700 miliardi di aiuto del governo al sistema bancario americano è questa addirittura sembra un cerchio infinito per cui la paura viene generata e recepita dagli stessi che la generano. È redditizia da certi punti di vista questa gestione. Udel, dalla chat, da parte che ti inneggiano, ma ci chiedono, parlaci dell'attacco al credit, che è successo davvero? Se ne ha voglia, noi traggiamo volentierissimo dalla chat, non so se ci hai sentito, se forse sì, ho sentito. Mi dispiace, ma zoppato dal sono in crisi anch'io, sono più o meno sul carattere 29, quindi... Beh, allora il problema è questo qua, che chiaramente le banche che sono più sorvegliabili dai governi, cioè quelle che sono locali e quelle che sono più di sportello, vengono considerate per una qualche ragione più solide, perché ci ricordano di più il vecchio sportello delle poste in cui andavamo a versare i soldi. Questa è una mentalità abbastanza pauperista. Unicredit in particolare ha fatto degli errori catastrofici prima. Però c'è da dire che, come dicevo prima, la finanza è la scienza del rischio, cioè il risk management è il loro pane quotidiano. Quindi ok, hanno corso dei rischi, gli è capitato di perdere. Ovviamente andare in ginocchio in un momento di crisi è più facile che andare in un ginocchio in un momento di brache grasse, perché se vai in ginocchio in un momento di crisi puoi dare la colpa alla crisi. Se vai in ginocchio in un momento di vacche grasse hai molte meno scuse, no? Beh, se noi riflettiamo anche per esempio all'11 settembre, no? In ultima analisi abbiamo abbattuto due grossi condomini di Manhattan, abbiamo causato 2000 morti, che sono, credo che siano il numero di morti di overdose di New York, però è crollata la borsa perché non abbiamo abbattuto la General Motors. È successo semplicemente che tutti quelli che avevano qualcosa da nascondere l'hanno tirato fuori, improvvisamente si è sgonfiata una bolla. Ma non c'è un legame di casualità del tipo siccome crollano le torri tutto va male. Il problema è tutto va male, lo nascondo, cascano le torri, ah che bello, è colpa delle torri, puff. E sembra che questo qui, buttando giù due condomini, abbia fatto chissà cosa. E la stessa cosa è con Unicredit. Unicredit non ha mai dichiarato di aver comprato questo genere di titoli in quantità almeno rilevanti. Se ha mentito è una questione, un problema dei giudici. Siccome non c'è nessuno in carcere, sembra di no, sta crollando perché ha fatto delle scelte assurde, ha speso soldi in maniera per acquisizioni in un periodo di alta liquidità, poi adesso si è trovata senza. E in questo periodo qua essere senza liquidità è un po' come essere un untore. Certo, come me in questo momento, sono un triscio di solo. Per cui il problema è che probabilmente Profumo si è salvato grazie a questa crisi, diciamo come va detto. E si troverà con una delle banche più capitalizzate d'Europa. Sì, però ha speso un bel po' di soldi in acquisizioni ultimamente, e c'è da dire che se si fermano anche gli scambi, essere una banca internazionale diventa problematico, perché hai un piede in due nazioni, i titoli del piede che hai in una nazione dati come controvalore alla BCE possono valere diversamente dai titoli dati come controvalore da un'altra nazione. Tutto diventa più complesso e quando c'è una situazione di rischio l'altra nazione è la Germania? Sì. Ah, ok, scusa. L'altra nazione è la Germania, però quando c'è una situazione di rischio chiaramente la complessità mette ancora più paura, perché quando c'è un rischio cosa fai? Guardi l'orizzonte e vuoi vedere il pericolo e lo vuoi vedere vestito di nero, mm-hmm. E così lo identifichi meglio. Se il pericolo comincia a essere di una complessità incredibile, ti sorride, non sei sicuro di riuscire a identificarlo bene, ti fa ancora più paura. Però questo fa capire che c'è una grossa contraddizione nel mondo della finanza, ovvero se volete lavorare con il rischio dovete avere meno paura. Se siete un po', tra virgolette, conigli, allora fate una finanza dove il rischio venga valutato diversamente, certo. Non dove il rischio ha un valore. Sì, sì. E questa è la speranza per il futuro, nel senso che spero che questa botta diciamo serva. Sono piuttosto ottimista, lo so. In questo periodo una persona felice... È imbarazzante, devo dire, quando con questo ottimismo. Sei piuttosto imbarazzante. No, l'ottimismo della... Come pessimismo della ragione e ottimismo della volontà, sì, era una cosa abbastanza... Ma strano! Sì, però detto con cognizione di causa così, ti dà la possibilità di essere ottimista. Sono fra i fortunati, dopo tutto, nel senso che un lavoro dipendente, però mi metto nei panni di un precario... E mi rendo conto che se togliamo alle banche la possibilità di prestargli i soldi per comprare la macchina, la casa, eccetera, alle banche non conviene più il precariato. E quindi quando Confindustria vuole ancora più precarietà, le banche vanno lì a dire sì, ma tu vuoi più precari e io come gli faccio i prestiti? Certo. Quindi in questo momento non dico che le banche siano diventate buone, siano dalla parte dei lavoratori, però bisogna anche capire che in America è successo quel che è successo perché le banche erano, tra virgolette, costrette a dare mutui a rischio. Perché alle banche non piace il rischio, li hanno dovuti dare perché gran parte dei lavoratori erano lavoratori a termine. Certo. Quindi con questa roba qua, con questa crisi, potrebbe anche spezzarsi questo meccanismo. Adesso non si potranno più fare subprime e quindi le banche come capitalizzano? i crediti a rischio, non lo fanno più. E allora come danno il mutuo al precario? Non lo possono più fare. Come vendi l'automobile al precario? Non lo puoi più fare. Come gli vendi lo stereo a rate? Non lo puoi più fare. E allora a questo punto, quando arriva la Marcegaglia e dice voglio chiudere in fretta i contratti, lo dice per quello, perché sa benissimo che tutta questa, diciamo, flessibilità sta per passare di moda. Certo, perché avrà una... Giusto oggi, Brunetta, il governo ha votato, ha scaricato ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, tutti quanti i precari, bloccando tutte le norme di stabilizzazione appunto dal precedente governo. Quindi dal 1 gennaio 2009 si blocca tutta la stabilizzazione dei precari nella PA, sia precari che tempi determinati. Quindi li vedo male questi a comprare auto, moto o case. Certo, sono una parte dei precari, però una parte sì. Comunque sono abbastanza consistente anche, quindi questi qui in banca non ci andranno, direi proprio di no. Prima avrebbero potuto darli, perché li avrebbero cartolarizzati quei mutui e poi li avrebbero rivenduti trasformando il rischio in una merce. Adesso non possono più farlo e quindi quelli sono tutti clienti persi per le banche, ma ancora peggio perché erano statali. Gli statali hanno sempre avuto dei mutui privilegiati perché davano più sicurezza alla banca, era un credito di qualità migliore. Se adesso cominciamo a dire che cominciamo a dagli statali, le banche prima o poi andranno a bussare dal signor Berlusconi e cominceranno a dirgli ma scusami, io come faccio? E quindi per questo che sono ottimista, perché c'è un meccanismo perverso che è iniziato con gli anni 80 che si è spezzato, e quindi per coerenza, siccome l'ho sempre odiato questo meccanismo, oggi sono ottimista. Noi siamo con te, grazie, sì, assolutamente. Guarda, noi presto ti ringraziamo tantissimo per tutto quello che ci hai detto. Bravo! Siamo contentissimi, veramente. Non si fanno l'applauso sia per il problema di rumore che poi fa così nelle cuffie, sia per così per bon ton verso tutti. Però te lo facciamo veramente perché così come si capiva nei tuoi post su Wolfstep, ugualmente a voce, anzi ancora di più, sì. Capisce di situazioni molto intricate in una maniera molto, molto chiara e diretta. È difficilissimo, veramente. Senti, l'ultima domanda molto popolare che tutti si chiedono quando vanno a fare la spesa: ma i soldi di banca che dobbiamo togliere o no? Cioè, allora, ci vede l'americano che li porta via insieme allo scatolone di cartone oppure no? Dici, confortaci, te che sei ottimista. No, allora, in Italia è dagli anni 60, credo che sia dal 64, che esiste un fondo bancario che copre tutti i depositi e i cosiddetti pronti contro termine. E questa cosa qua, poi tra l'altro ci è stata copiata, no? Da quelli che... ci dicevano che noi siamo una finanza arretrata, eccetera, eccetera. Poi improvvisamente l'hanno scoperto e adesso lo stanno facendo tutti. L'ha fatto l'Irlanda causando l'irritazione degli inglesi, bla bla bla bla bla. Sta di fatto che se fallisse una banca in Italia fino a 103.000 euro per ogni conto, per ogni persona, diciamo, il credito è garantito. Questo significa che anche se andassimo tutti a ritirare il credito, ce lo darebbero indietro, cioè i soldi, al massimo dovrebbero aspettare il camion con i soldi che arriva. Il vero dramma di tutta questa, che tutti i componenti del vacunaccio hanno ben sopra i 104.000 euro, ma centinaia di migliaia, e quindi vabbè, sono fatti soldi. Da questo... succede, se sta qui paga il Ministero del Tesoro? No, paga un fondo che è stato creato dalle banche, e pagano le altre banche che si assicurano a vicenda. Questa è una ragione per cui nessuno voleva mai che tu lasciassi i soldi sul conto in banca, perché ogni volta che tu mettevi i soldi sul conto in banca, loro dovevano versare o garantirli su questo benedetto fondo, e quindi ti venivano a dire ma perché li lascia sul conto, come se i soldi sul conto si annoiassero, no? O fossi soli. Non è vero, era semplicemente perché se li lasciavi sul conto diventava un deposito e loro dovevano garantirtelo per legge, mentre se compravi azioni chiaramente poi erano tutti cavoli tuoi e quindi loro non dovevano più garantire nulla. Certo. Per cui soldi, se uno ha dei liquidi in un conto in banca può lasciarceli, non, cioè, a meno che non fallisca tutte le banche. Sì, no, questo ma sei pazzo, ma sotto 104.000 euro, ma per chi ce l'è? Ma forse 104.000 euro, arriveremo a 4-5.000 euro in 5, ma insomma, No, ma cosa buffa è che sono 100.000 euro a persona, significa che se per esempio io e mia moglie abbiamo un conto cointestato, questo conto è garantito fino a 206.000 euro. Perché sono 103.000 a persona e a conto. Uriel, noi ti ringraziamo veramente per il collegamento. Cioè, l'ultima domanda viene direttamente da un foglio che è comparso tra noi, c'è scritto: dici quando ti presenti alle elezioni, perché comunque qualcuno forse ha detto un votante ce l'ha, un votante ce l'hai. Non tutti votano, perché c'è anche chi non vota, non so, così, di suo, però tra quelli che votano uno ti voterebbe, perché è pienamente d'accordo. E niente, noi ti ringraziamo ancora, se vuoi ascoltarci naturalmente noi continuiamo per un altro po' la puntata, se hai voglia di chiamarci su qualcosa siamo completa disposizione e andiamo a dormire tranquilli grazie a te. Sì, cazzo, guarda, sì, veramente. Mettiamo una canzone, qualche scossone ci sarà, questo è sicuro, però la situazione diciamo che nel complesso dovrebbe tendere al meglio per l'Europa e specialmente per l'Italia, anche se può sembrare paradossale, però oggi tutti cercano una piattaforma sicura dove buttare soldi, è ciò che è rigido e sicuro in questi periodi. Su Radio Catrame 19. State ascoltando Radio Catrame 19 sulle frequenze 99. Wipe away the blood, get it back here. effetti... Paolo, ci servono 300.000 euro. Allora, rieccoci nel vagonaccio dopo il proficuissimo collegamento con Uriel, che ci ha parlato di paura, mercati finanziari e molte altre cose, stimolati anche dalla chat. Noi continuiamo a ringraziare tutti i nostri nuovi web spettatori per tutto quello che ci hanno passato stasera come contenuti, come spunti. E noi vogliamo ricordarvi alcuni indirizzi che ci sono stati utili in questa puntata, ricordandovi anche che li scriveremo anche sul blog di Radio Catrame e anche altrove. E uno appunto che avete appena sentito, il primo che avete sentito, è Carlo Cannella da Leiden, tutto deve crollare.splinder.com, tutto deve crollare come il titolo del suo ultimo libro scritto in sì. Creative Commons per la casa editrice Vibrisserini. Poi avete sentito Uriel, wolfstep.cc, il suo sito blog Tumblr, veramente interessante perché ci ha fatto una disamina molto accurata e sincera della situazione a livello finanziario, molto diretta anche. E vorremmo darvi anche un URL, un altro è il nostro Paolo che continua a darci suggerimenti anche online, però prima dobbiamo dire quelli della scaletta. C'è una vignetta molto bella su canemucca.com in cui c'è un paperotto dentro un letto che dice, che si risveglia, dice: basta un nulla per risvegliarmi dalla tranquillità di un oblio laborioso costruito con assiduità, con ostinazione quotidiana, come deciflessioni ogni mattina. Io ve ne leggo soltanto la prima parte perché poi andate a vedere quando mettiamo su il link. La nostra puntata dovrebbe andare avanti. Il nostro sociologo che impressione ha avuto, ecco, di tutte queste informazioni e riflessioni che si sono succedute stasera? A parte che è finita la birra e questo è un fatto gravissimo. Ma il nostro frigo bar dell'ufficio della... Manca la birra, abbiamo bisogno di liquidità. Sì, abbiamo bisogno di liquidità. E la liquidità, questo... infatti, noi ne abbiamo bisogno. Le banche, se non ce l'hanno, è un problema. Bauman dice che la società è liquida, quindi il liquido... È dappertutto. È il logo del terzo millennio. Io intanto vado con Enza a prendere una birra. Un po' di liquidità anche sì, tu? Sì, c'è una sete incredibile. Come va? Eravamo qua durante la pubblicità. Durante la musica, noi non ce l'abbiamo la pubblicità. Non era la pubblicità, credevo fosse. Vogliamo la pubblicità, fare un po' di pubblicità occulta? Cioè, a che alla cosa? Birra, va bene, dai, alla facciamo birra. La pubblicità alla birra. Cioè, lo vogliamo dire che si sta bevendo? Si sta bevendo una birra. Quest'altro non ci pagano. Ci paga solo ci paga l'americana, non ci pagano i tedeschi, che siamo anche cofratelli unicreditiani. La Oberdorf Weissbier non ci paga? No, non ci paga, soltanto la Budweiser. Bah, guarda te. Ci paga noi? La Budweiser. La Budweiser. Occulta. No, in realtà è che... No, io ringrazio i nostri amici che sono intervenuti. È perché noi si parlottava in questo mentre. Quante cose proprio dette con questo accento toscano ti arrivano alla mente, riflessioni e in piccoli grandi insegnamenti. Comunque siamo bombardati dalle notizie e dare un'interpretazione, un senso, un flusso, cioè è difficile. Leggi un giornale, quanti blog guardi un giorno? Caro il mio Sandrini che mi guarda fisso negli occhi, zero blog, non legge nulla. Non segui blog? No. Segui giornali online? Solo quelli porno. Solo quelli porno. Siamo arrivati alla fine di una serata gloriosa. Gloriosa. Col grande vecchio porno che risolve tutto. Attenzione perché abbiamo dei problemi di solleva. Non mi sentivo più, adesso mi sento. Ecco, come forse ho anche le orecchie tappate dall'influenza. Esatto. Dunque, adesso la trasmissione potrebbe andare avanti con una canzone, se non hai altre cose. O la nostra chat, che cosa stanno dicendo? La nostra chat, innanzitutto, concedimi, Strelnik, che non sei altro, di salutare il nostro caro amico Ezekiel. Sì, assolutamente sì. E consenti di salutare la nostra cara amico, amica, non lo so, Cappello Creativo. Che la però, Costanze. Che però so che è amica di Sandrini. E di Scalini. E dell'altro. È amica del vagonaccio, amica del vagonaccio. E Ariel, fortunatamente, che ci ha appena lasciato dalla voce, è arrivato a confortarci anche sulle chat. E gli stanno facendo più domande veramente che a un cassiere della bar. Uriel, io ho detto Ariel. No, Ariel era Sirenetta, ho sbagliato. E quella era Sirenetta, mi sono sbagliata. Allora, ragazzi, vi siete un po' distratti. Siamo sul cadere della puntata e siamo un po' distratti. Posso fare un giro? Innanzitutto ricordiamo che lanciamo anche questa sera il nuovo sondaggio. Diteci di cosa avete paura, qual è la vostra paura più grande, e mandate una mail, la nostra mail classica, che è fare con la che mezzo, chiocciolarai.it, e scrivete qual è la vostra paura. Ormai, come sempre, il nostro partenariato sociale, telematico, radiofonico con fare con la che mezzo, fare night, va avanti. Vi giuro che Sinibaldi con 2B ci gira tutte le mail, tutte, quindi è ormai una partecipazione veramente che va benissimo, non conosce crisi, non conosce crack. Qual è la vostra paura principale? Inondate il sito di fare. Inondate la mail di fare, ecco. Oh. Poi, domanda è, l'ultimo giro di domande veloci e poi passiamo alla canzone. Te di cosa hai paura, calzolai? Allora, la tua paura più grande, no, vi dico di cosa ho paura. Dici. È una paura diffusa tra gli italiani, cioè? Ma soprattutto per i cittadini della città di Faenza. Incontrare nel bel mezzo della notte, intorno a mezzanotte ad esempio, in una stradina buia e tempestosa, il Sandrini. Questo io ho paura. Hai molta paura. Sta ridacchiando, sta ridacchiando il Sandrini. Sì, in effetti non puoi vedere, ma sta ridacchiando. Io ho paura di Hans, allora, che c'è ma non si vede. Io ho paura di quelli che ci sono ma non si vedono. E tocca. E tocca, ogni tanto tocca. E bisogna stare molto attenti ai fonici, perché lui si è aggasato, perché il fonico di Ligabue ha querelato Ligabue, lo sai? No, perché non lo so. Ligabue ha detto che ha diffamato il suo fonico, quindi te che parli sempre male di Enzo, tanto perché ti querela, poi finiamo a fare un processo con Enzo, eh? Porca poi ci voglio vedere. La tua paura è Enzo. Sandrini, qual è la tua paura? Ma io non c'ho paura adesso. Eccolo qui, direttamente dal vecchio West, un uomo senza paura. Ho detto adesso. Adesso? Ma dopo che ho sentito queste belle cose, che c'è da aver paura? Perfetto. Oh. Dario, paura di? Ma innanzitutto bisogna capire bene che cosa vuol dire, cosa si intende per paura e per odio, che qui siamo partiti subito in trombo con delle cose iperpese, qui dette dal nostro sociologo, tirate fuori da Bauman, e però adesso per non fare poi un'analisi tediosa, iper stufosa su paura e odio, mi sembra che una cosa abbastanza diffusa sia appunto la paura dell'ignoranza. Questa paura dell'ignoranza che appunto uno non riesce bene a identificare, però anche soltanto, come siamo partiti all'inizio serata, paura dell'estraneo, dell'immigrato, è sempre una paura dell'ignoranza, perché adesso non voglio fare il superiore e anzi non voglio dire assolutamente questo, che avevamo già citato appunto, che chi dice che non bisogna avere paura, magari proprio bisogna avere paura di chi dice così, perché fa il superbo, comunque sta sopra. Invece dico proprio che vedendo altre culture che appunto non sono come le stesse, magari vengono intraprese come loro vengono visti come degli ignoranti, e invece soltanto una cultura diversa. Non dico che non bisogna avere paura, perché la paura fa parte del nostro essere e serve appunto nell'uomo, mentre l'odio fa parte del nostro essere, ma non mi sembra che serva un granché. Quindi, mentre la paura c'è e non bisogna per me debellarla, l'odio invece si può veramente bypassare, perché implica energia, implica veramente fatica, devi stare lì a odiare, c'è proprio un impegno di risorse assolutamente trascurabile, nel senso che lo puoi benissimo saltare, che stai bene lo stesso. Quindi per me, riassumendo, facendo un bignè del tutto, è paura dell'ignoranza, anche perché ignoranza, appunto, finendo con Uriel, era appunto tutta questa gente che ha paura di questo crack, che poi per me non è un vero e proprio crack, ma crisi che implica cambiamento, ma adesso qui è un'altra parentesi. Comunque anche questa paura dell'ignoranza si sposa benissimo con anche la paura di questa crisi che sei in atto, perché essendo ignoranti che non sappiamo bene bene cos'è che sta succedendo, insomma, iperpanico e ci preoccupiamo, svendiamo, triboliamo, ci rodiamo il fegato, eccetera. Già adesso con Uriel che ci ha chiarito e pianificato un po' l'idea, insomma, stavamo facendo considerazioni un po' più soft e, tra virgolette, polleggiate anche qui nel nostro vagonaccio. Punto. Saluto qua gli Ovonet Radio Spettatori. E hanno detto dalla chat: hai capito tu questo come fa un interventino? Hai capito se figli? Ho detto: ragazzi, ma noi al vagonaccio mica prendiamo... No, no, il vagonaccio prendono sempre degli equipaggi qua interessantissimi. È un veramente... un bel posto, un bel incrocio. Cioè, stasera c'è anche ora c'è spazioso. Spazioso no. In effetti, diciamo c'è... che il vagonaccio è intimo. Sì, è un luogo intimo. Sì, sente il puzzo dei piedi mio. Sì, anche altri mente, a proposito di paure, questa è una paura. Insomma, è una paura, che molta paura. Paura e odio, ad esempio, a livello politico è diverso. Perché, tipo, la Brunetta mi fa paura. La Carfagna l'odio proprio, invece, vedi, sono due cose diverse. Vedi, però l'odio, se lo prendi dal punto di vista soltanto utilitaristico, di spreco di energie, appunto. Sì, sì, diceva... mi fa sprecare molta energia. Esatto. Perché... ma non ottieni nulla, mentre con la paura riesci appunto a comportarti in modo utile anche per te stesso. Con l'odio non riesci a guadagnare nulla, quindi per me è soltanto fatica. Sì, è rabbia, buttata lì come lei, buttata un po' lì. Sì, ci vuole un arrivederci ora per introdurci nella parte finale della puntata. Oppure che finisca la birra. No. Grunwalski è morto di freddo. Arrivederci. Dei pomeriggi quando li butti via ci fa da leggero così scalino per la parte finale. Loro sono il Laghetto da Bologna. Noi ve le facciamo sentire una parte, poi il nostro sociologo però spinge, vedo molto, per farvi sentire una canzone che lui piace molto, The Searching Guitar, che si chiama Morricone. Perché ti piace? E mi piace questa canzone perché mi piace farmi spiegare da Alberto Sordi i perché delle guerre. E allora sentiamoci un po' del Laghetto e poi Hans ci trova a Morricone e ci avviamo nella parte finale, nei saluti finali, eh? Vai Laghetto! Guardandomi l'anellino nuovo. E questo è il pezzo dei Searching Guitar. Cos'è che diceva il social. Guerra? E i tuoi figli? Sai cosa gli hanno fatto i compagni di scuola, Rick? Gli hanno sputato in faccia e gli hanno detto: tuo padre è un porco che sfrutta il sangue dei negri. Papà, non trovo parole per esprimermi. Ne trovo una sola. Vergogna. Vero, mamma? Sì. Vergogna. Ma che cazzo state dicendo? Vergogna, non vergogna. Ma se l'ha fatta per lui, per la sua famiglia. Ma se non sono riuscito che a farli piangere, non li vedo. Vabbè, ma piangono nel lusso, piangono nel benessere, piangono nell'agiatezza. di cui non sapevamo la fonte. Se avessimo saputo da dove veniva questa giacchetta, papà, non l'avremmo mai accettata. E va bene. Adesso lo sapete. Allora ditemi voi quello che devo fare. Posso anche cambiare mestiere, sì. Io mi rimetto a vendere le pompe idrauliche. È un articolo semplice, pacifico e socialmente utile. Le mie 300-400 mila lire al mese le guadagno sicuro. Ed è una cifra con la quale una famiglia può vivere anche decorosamente. Se si pensa che un terzo del mondo ha un reddito pro capite di 30 mila lire l'anno, ma non come voi, non come abbiamo vissuto noi fino ad ora, no? Non ti pare, cara Silvia? E anche voi, miei cari ragazzi? Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le anellini, i braccialetti, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le belle macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le belle tutti i cazzi che ne credo! Costano molto e per procurarsi qualcuno bisogna mettere le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le belle macchine, costano molto e per procurarsi qualcuno bisogna mettere le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le belle macchine, tutti i cazzi che ne credo! Sentite, io non gliela faccio più, sono morto di stanchezza. Ho bisogno di dormire almeno un'oretta. Io dovrei ripartire subito, oggi. Ho un aereo alle 5:10. Devo andare a piazzare un carico di 70.000 mitragliatrici. Vabbè, fate voi, decidete voi. Tutto quello che voi mi dite mi sta bene. Se voi volete veramente che io cambi mestiere e che riprenda il mio vecchio lavoro delle pompe idrauliche, allora non mi svegliate, fatemi dormire fino a domani mattina. Se invece decidete che io debba ripartire, Allora svegliatemi fra un'ora. Alle 3:30. Dottore? Dottore? Dottore? Eh? La signora mi ha detto di svegliarti. Che ora è? Le 3:15. Pure 15 minutes prima. Sì, il Morricone dei Searching Guitar è sempre una gran bella canzone da, da ascoltare. E poi canzone un po' riduttiva, perché c'è un pezzo di film dentro, che finché c'è guerra c'è speranza. Mi sì, dici come sono questi? Ci chiedono dalla chat? Searching Guitar, come cercando la chitarra. Ok. Comunque poi troverete il link sul... della playlist delle canzoni sul sito di Radio Catrame 19, che è www.catrame19.it. Permettimi di salutare a fine serata il grande Brav'uomo che è appena entrato in chat. Allora, Brav'uomo ci chiude la puntata, perché Brav'uomo da Torino, che è uno dei fondatori di Radio Catrame 19, che mi dice che ha avuto un impegno questa sera. Ha avuto un impegno, esatto. Chiedi se comunque, siccome avevamo previsto un collegamento anche da Torino con Brav'uomo che ci avrebbe detto e letto delle cose, chiedigli se vuole ancora farlo o se invece magari ci sentiamo in una prossima puntata. Le cadenze delle puntate non sono più settimanali, saranno magari mensili, ne facciamo una al mese, però cerchiamo di, ecco, prepararla un po' meglio e di trovare scalette, argomenti e contribuenti dal mondo della rete, non solo, che possano aiutarci a sviscerare il tutto. Io vedo il nostro sciocco Carso Bai che fa delle facce stranissime. Allora, insieme a Enzo, una maschera con Brav'uomo ci sentiamo nelle prossime puntate. Sì. Che adesso è un attimo da solo, la moglie qui non c'è, insomma. Tra l'altro gli facciamo molti auguri di guarigione perché si è fatto male ad un piede. Sì, non capisco perché si continua a voler fare attività sportive che non sono nella sua indole. Stai a casa, casa. No, invece lo vedo bene a fare attività sportive. No, è bravo. Tanto che a volte il piede, la caviglia cede, capito? È stato un contropiede in cui la caviglia ha ceduto. Un contropiede. Alla caviglia non si comanda. Allora, io direi che siamo in chiusura di serata. Sociologo, sì. cosa... No, pensavo... Sociologo è... ragazzi, dai, questa cosa qua, come ci dicevano dalla chat, questo pezzo va dal Bertone, è bellissimo, è veramente ganzo, è tremendo. Però alle volte non è che ci siano tante parole. Era bello anche vedere i nostri cari spettatori qui presenti, ascoltare con attenzione il pezzo, condividere un'emozione e su queste parole dolci... Vi saluto anch'io e vi ringrazio tutti di cuore, perché veramente, cioè, in poco tempo sei riamato qua nel vagonaccio il mondo e mille pensieri. Calzolai sei tutti noi, gridano dalla chat. Esatto, noi vi salutiamo veramente, ringraziamo tutti il nostro Ovo Web Net etere spettatori, che sono stati veramente numerosi. E abbiamo soltanto da salutare alla fine il nostro Enz. E che cosa dire? Che la puntata potete sentirla per l'eternità, ahimè per voi, sul podcast, che sarà disponibile sul sito di Radio Catrame fra qualche giorno. C'è da scegliere soltanto la canzone di chiusura, per cui io andrei su un popolare. Oppure sì. Chiudi col mio preferito, sai, che sarà poi in zona vicinissima. Ah sì, allora approfittiamo per dire questo. Fra due giorni ci rendi il vagonaccio e in missione a sentire il nostro caro Le Luci della Centrale Elettrica. Vasco Brondi, questo venerdì sarà a Pescara al Wake Up. Insieme a Giorgio Canali a presentare il suo ultimo disco, il primo disco. Noi è un po' di tempo, qualche anno ormai, noi diciamo un anno e più che lo mandiamo sulla nostra radio, ci fa piacere che adesso se ne vada anche in giro a presentare questi suoi lavori. Quindi noi chiuderemo allora a questo punto qui con Le Luci. E Brav'uomo ha fatto l'aggancione della serata. Esatto. Che Brav'uomo ha detto la cosa che tu, caro Strelvic, hai detto all'inizio della puntata. Che cosa? Calzolai, lo vedo in forma. Bellissimo. Si chiude il cerchio. È veramente un sistema. È veramente un piccolo mondo. E io avevo detto un sistema. No, avevo detto ti vedo in forma, ma anche teso. Anche teso. E questo, questa ambivalenza si è iniziato. Non lo vedo più teso, devo dire che adesso non lo vedo più teso e lo vedo soltanto in forma, quindi parla come scrive il numero 31, è servito perlomeno a questo. Liv un po' influenzata, ma si ricorda. Sono influenzata e bravo, dice delle cose che mi fanno commuovere, perché io già mi commuovo da solo perché bene l'anima che voglio a quest'uomo. Ci dice che siete diventati bravi, sembrate una radio vera, guarda, sembriamo una radio vera, sì lo so, e ormai a forza di stare in contatto con i Sinibaldi diventiamo veri e quindi siamo veri. Do un pizzico a Calzolà in questo momento che è verissimo, è molto in verissimo. Forma. E allora, chiusura di serata. Chiusura di serata con i Garage a Milano, mi sembra. Con i Garage a Milano. Concedetemi di presentare Strednik, perché la nostra voce portante poi non la presenta mai nessuno, nessuno lo ringrazia come si dovrebbe. Ecco. Come si dovrebbe. Bottigliate in testa. Oh. A me mi piacciono le vostre bottigliate in testa, sì. Notte a Strednik. Notte a tutti voi con... Notte a Sandrini, sì. Il nostro show numero 2, notte a Dario. E... per la quale, essendo in una radio seria, appunto, come ormai si con come appunto si come compete appunto in tutte le radio serie, l'ospite fa i saluti a casa, quindi a tutti quelli che mi conoscono. E sta sempre bene, dai, nonché la Bea. Certo, fantastico, certo. Salutiamo e ringraziamo Uriel e Carlo Cannella che ci hanno portato nei meandri delle stazioni di questo vagonaccio numero 31 e con nei Garage a Milano. Buonanotte! No, le luci della centrale elettrica. Buonanotte a Porta Alegre. Ciao Enz. Semafori cominciavano a lampeggiare arancioni, mi puoi spiegare il colore acciaio del cielo, le sfumature di grigio di cui ti parlavo, del cielo berlusconiano di Milano. Milano era veleno, Milano era veleno, e il paradosso del cielo notturno illuminato a giorno da stelle deficienti, da stelle col tuo nome, insegne luminose, tifosi violenti, arruoliamo brigatisti. Nei bar deserti, sui navigli, staremo ad abbaiare a questo cielo da rottamare, al cielo su Berlino, io lavoro in nero. Milano era veleno, Milano era veleno, Milano era veleno, il paradosso del cielo notturno illuminato a giorno da stelle deficienti, da stelle col tuo nome, insegne luminose. Milano da bere, Milano da bere, tifosi violenti sparano ai satelliti intelligenti, dai bar deserti sui navigli. La curiosità ci divorava, la curiosità ci divorava. garage a Milano Nord. Chi odia i terroni, chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta. Radio Catrame 19, la tua web radio inusuale. Cos'è questa cosa? In confronto, la mescalina pura somiglia a un gingerino, bello mio. Gingerino?